Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Con questi grandi buchi sottoterra, le miniere, quando sono esaurite, cosa possiamo farci? Ci potremmo conservare le mele, ad esempio. Ma no! Ma come no? In Trentino già lo fanno. Oggi lo raccontiamo a Foodlab. E quindi andiamo in miniera. Sì, non proprio in miniera, però insomma quasi. Ci facciamo raccontare l'esperienza. Andiamo in particolare a San Michele all'Adige, dove nostro ospite, che adesso saluteremo, lavora per la Fondazione Edmund Mac. Benvenuto Livio Fadanelli. Grazie. Benvenuto. Lei è ricercatore soprattutto nel settore della post raccolta, della conservazione dei prodotti ortofrutticoli. Per questo in apertura abbiamo parlato di mele e di miniere, di cave all'interno proprio della roccia. Che tipo di sperimentazione avete fatto e adesso, la sperimentazione è finita, che cosa state testando lì? Sì, bene, allora avete già detto voi, miniera, mele, un connubio insomma che è nato dal 2010 con un primo approccio, delle ditte che scavavano, creavano dei vuoti di cava. Perché non potremmo provare a sperimentare qualcosa all'interno di questi vuoti di cava? Voi sapete che utilizzare un vuoto di cava è già un beneficio di sé. E allora è nato un contatto con noi e noi abbiamo suggerito, visto che non c'era una scarsa conoscenza in questo ambito, abbiamo suggerito di costruire una piccola celletta sperimentale in profondità nella montagna, esattamente a quasi 800 metri di profondità, per capire, perché non lo si sapeva, fino a che punto era possibile utilizzare quei vuoti di cava per conservarci delle mele. E così è nata la prima collaborazione. Intanto i vuoti di cava, se abbiamo capito bene, insomma, sono quegli enormi buchi che si formano appunto andando a scavare la roccia per farne altri usi, quindi comunque ci sarebbero. Voi avete pensato di sfruttarli in questo senso? Normalmente il materiale viene scavato, viene tolto dalla miniera con dimensioni, misure ben più ampie di quelle che servono a noi per la costruzione di celle di conservazione per le mele. Per capirci, esiste un limite: oltre 13-14 cassoni in altezza non si può salire, insomma, quindi non avrebbe senso costruire dei vuoti di 30 metri, a noi ne bastano di 11-12 metri. Quindi abbiamo a questo punto concordato che loro realizzassero dei vuoti di cava rispettando delle geometrie che potevano interessare ad entrambi, insomma loro estraendo il materiale e per la parte nostra provare a conservarci delle mele. Anche miniere abbandonate che sono esaurite, noi abbiamo scherzato un po' all'inizio, anche queste potrebbero funzionare o avete bisogno di questo tipo tutto è possibile, dopo questa fase sperimentale che ci ha rassicurati tutto sarebbe possibile. Ovviamente a noi interessano dei volumi adeguati per poterci sviluppare dei progetti con una testa e una coda, però diciamo ci fossero delle miniere non utilizzate, non più utilizzate, si potrebbe farci un progettino per utilizzarle a questo punto. Giustamente lei parlava di fase sperimentale perché non sapevamo prima che potessero essere utilizzate appunto come celle frigorifere per le mele o per altri alimenti. Per onestà, che esistono dei piccolissimi esempi per la conservazione di ortaggi e frutta fatta in Corea, però si trattava di cave interrate sottoterra, in senso in profondità e non a livello del suolo, prima cosa. Secondo, solo con l'impiego del freddo, a noi interessava l'impiego del freddo e l'impiego dell'atmosfera controllata. In questo senso non esisteva alcuna sperimentazione, è il primo caso al mondo. Ecco, infatti adesso le chiederemo, insomma, mi pare che la sperimentazione l'avete fatta su qualcosa come 100.000 mele, adesso lo state praticamente triplicando questo numero, però sì. Le chiederemo appunto, siccome la quantità è veramente vasta e magari in espansione, le chiederei appunto di raccontarci quali sono i vantaggi. Il risparmio energetico forse sono evidenti. Avrete proprio dei costi diversi. Sì, allora diciamo la celletta sperimentale era di 1200 quintali di mele, una piccola cellettina. Adesso il primo lotto di celle realizzate, 12 celle di circa 10.000 quintali cada una, sono 100.000 quintali di mele già conservate la stagione scorsa in questo ambiente ipogeo. Adesso sta procedendo il progetto in un secondo stralcio, un secondo lotto per altri 100.000 e poi ci sarà una storia che continuerà probabilmente ancora. Grandi vantaggi: solitamente si enfatizza il concetto di risparmio energetico, questo è uno degli aspetti. Se mi consente, non lo metterei neppure al primo posto, lo lascerei un pelino più indietro. Qual è il grande beneficio? Beh, pensiamo innanzitutto al risparmio di territorio. Utilizzare dei vuoti di cava sottoterra anziché dover costruire dei magazzini fuori terra, un magazzino a 100.000 quintali occuperebbe almeno un ettaro di superficie, 10-12.000 metri. Noi abbiamo un territorio piuttosto avaro, avido insomma di terra. No, poi c'è da dire visivo, che quei buchi ci sono. Sarebbero 50-60.000 metri cubi di costruzioni, visibile il cemento armato. Risparmio di materiali coibentanti, abbiamo già detto prima, noi utilizziamo la roccia tal quale e non abbiamo bisogno di pannelli isolanti per costruirvi delle celle. Sarebbero 15-16.000 metri quadri di pannelli isolanti che dovremmo utilizzare e che qui abbiamo risparmiato. L'ottimizzazione della produzione del freddo, ho parlato poc'anzi, abbiamo una notevole disponibilità di acqua lì, un pozzo, scavi un foro nella roccia, ti esce tanto di quell'acqua fossile, quindi noi possiamo avere dell'acqua a temperatura costante, 10 gradi, per condensare l'impianto frigorifero a temperatura costante. Adesso non so se voi siete addetti ai lavori, questo significa aumentare il COP, il coefficiente di performance dell'impianto frigorifero, mantenendolo a condizioni costanti. Minori costi di costruzione e di gestione, non dobbiamo costruire più di tanto. Tanto le cave estraggono il materiale e l'ambiente è fatto, ecco, quindi non vuole farci null'altro. Tra gli ultimi, a questo punto, mettiamoci anche quello del risparmio energetico. È un frigorifero perfetto, ci viene da dire. Si può pensare in conclusione di applicare anche ad altri ortofrutti, ad altre verdure o, che ne so, al formaggio? Ma sì, perché credo che la conservazione della mela sia oggi il top dal punto di vista della tecnologia, l'impiego del freddo, qualità del freddo e impiego di atmosfere controllate. Lì dentro realizziamo delle atmosfere controllate. Se poi parliamo di ortaggi, siamo a livello sicuramente pari, se non inferiore. Potremmo pensare alla conservazione di bottiglie di vino, alla stagionatura di champagne, di spumanti, tutto quello che vogliamo. È un ambiente che sicuramente va rivisto, ecco, questo della cava, della miniera, proprio anche alla luce della nostra esperienza. Che va sfruttato in maniera così intelligente. Va bene, grazie mille Fadanelli. Prego. Ci faccia sapere se ci sono altre applicazioni di questo chiamate, tipo. Vi rispondo volentieri, vi tengo aggiornato. Va bene, grazie, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Beh, Chiara, diciamoci, hanno iniziato tutto così, no? Ah sì, vivevamo nelle caverne, quindi diciamo che non ci siamo inventati nulla di nuovo. Va bene, per oggi è tutto. Ci sentiamo presto con Food Lab.